Mr. Sciacco verso il soblio, razza fine. Sono la parte di un riassunto non ancora svolto. Non per colpa mia per stare vivo devo stare storto. Ma non che in questo modo può durare molto. Dammi tu questa risposta in solitario contro questo posto. Testimone di uno scontro senza cura e senza medico. Soldati in prima linea addosso al logo di chi ha visto il seguito. RCD, refrattari antisacra. Sto reparto al cazzo duro, ingoia il beat come lo hackers. Fissa sempre in faccia la tua strada, la tua storia. Poi mettila a confronto tra miseria e poca gloria. Fiero della gente con la fotta sempre in vista. Miei fratelli amore a mille in questa vita e nella prossima. Inutile discutere di storie serie, ma per tutte le virtù di plastica che sento in tele. Tipo serial killer, più morti al seguito più mi sviluppo. Nato sopra un rap insipido dal quale sfugo. Pensano al da farsi mentre pensano a fregarti. I soliti sorrisi a qualche stronzo dai motivi falsi. Passo la parola a chi sa già di devastarsi. Adesso passo la parola a chi sa già di mantenersi. Veloce, medio andante, il moto giusto, l'antisfiga. Ci pensa Mr. Obli a dare fuoco a questa strada. E non mi vedi. E tu che non mi vedi. Ogni meccanico di dietro, ogni satanico segreto, sei completo già al tappeto. Killer terrorista, ti contamino col fuego assieme a Sciacco. Zero suono opaco, senti l'eco, senti l'ego nella pista. Sono il capo, porto panico marxista, pervertito come l'apo. Vivo nel concreto, carismatico, 10 anni che mi sbatto, 100 kg, scacco matto, porto rime a serramanico. Lento come un bradipo, hobby LI, peso peso, bombardate la spardiero nella city. Con la fame di rivalsa, la mia manna mo ti appanna. La tua farsa non si muove di una spanna, la mia scanna. Nella metro sulla traccia batto stecca, la tua mecca di minaccia. Perché fuori in tutta Italia c'è il mio pezzo che rinfaccia la tua satira. Torna al fresco nella tua cella frigorifera. E non mi vedi, non mi vedo, non mi vedi, non mi vedi. E non mi vedi, non mi vedi. E tu che non mi vedi, non mi vedi. E no, che non mi vedi. E non mi vedi, tu che non mi vedi. E tu che non mi vedi, non mi vedi. Figlio di puttana, 2 LI, Sciacco, hobby LI, sul beat, fonico, studio, Rice Man ai comandi, Chopin ai comandi. Siamo tutti